Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ho letto su internet una battuta che dice che le tre maggiori cause di morte di una rockstar sono la droga, l'alcol e il 2016. È una battuta cruda, forse neanche di buon gusto, però in effetti il 2016 si candida a essere un anno maledetto. Prima David Bowie, poi il suicidio di Keith Emerson e poi la morte di Prince. Noi non abbiamo ancora notizie certe su come sia morto. Molti temono che sia un'overdose di oppiacei, un po' come è accaduto a Michael Jackson. Sicuramente un rapporto con quella parte della medicina che finisce a sfociare nella tossicodipendenza, insomma un rapporto abbastanza controverso. E di certo la scomparsa di Prince è un evento terribile, perché lui è stato uno dei più grandi musicisti negli ultimi anni, capace di rivoluzionare in maniera profonda la musica pop. Un uomo incredibilmente dotato, anticonformista nel suo approccio nei confronti della musica, della vita, un uomo imperscrutabile, misterioso e direi assolutamente autonomo. Vedremo come e perché. One thing I'd like to say is that... C'è una cosa che vorrei dire. Non vivo in una prigione. Non ho paura di nulla. Non ho costruito muri intorno a me. Sono come tutti gli altri. Ho bisogno di amore e di acqua. Non mi considero una superstar. Vivo e per sempre vivrò in una piccola città, perché qui posso andare in giro continuando a essere me stesso. I can walk around and be me. E la piccola città è Minneapolis, nel Minnesota, a nord degli Stati Uniti. Qui Prince Rogers Nelson nasce 7 giugno 1958 e stava per compiere 58 anni, quindi Prince era proprio il suo nome, lo prende dal padre John, anche lui musicista, che ha un gruppo chiamato Prince Rogers Trio. I locali dove il padre suona sono i club di spogliarelliste, l'atmosfera è in casa è molto musicale, tant'è che Prince scrive la sua prima canzone, Funk Machine, a 7 anni sul piano del papà, e John aiuta il figlio con la musica, però il padre è anche un uomo non facile. Era molto severo riguardo la disciplina, ma tutti i padri lo sono. Però grazie a lui ho imparato cosa è giusto e cosa è sbagliato. L'infanzia di Prince non è facilissima, vive coi genitori in un quartiere povero, i suoi litigano molto e poi avviene il classico evento che cambia la vita di un bambino, i genitori che si separano. Prince, che ha 10 anni, va a vivere con la madre, il patrigno, e il patrigno che però è un tipo che lo porta a vedere un concerto di un certo James Brown, e Prince prova la sua prima grande emozione legata agli show musicali. James Brown played big influence on my... James Brown ha giocato una parte importante nel mio stile. Quando avevo circa 10 anni, il mio patrigno mi fece salire sul palcoscenico durante un suo concerto e io ballai fino a quando le guardie del corpo mi fecero scendere. La ragione per la quale mi piacciono gli show di James Brown è che, scendendo dal palco per uscire, vidi delle bellissime ragazze ballare. E in effetti le belle ragazze sono una parte integrante e interessante della vita di ogni musicista che si rispetti, però se non hai talento c'è poco da fare, e per fortuna di talento Prince ne ha a vagonate. Ho capito molto presto che questo era quello che volevo fare. Forse avevo 12 anni. La musica è quello che volevo fare per il resto della mia vita. E con questa convinzione, quando lui arriva al liceo, trascorre la maggior parte del tempo chiuso nell'aula di musica, prova ogni strumento possibile, così impara a suonare il piano, la chitarra, la batteria, il basso. Il suo miglior amico diventa un certo Andre Anderson, con il quale trascorre la maggior parte del tempo. I due ragazzi suonano nel seminterrato di casa Anderson. Spesso succede che Prince si fermi a dormire dagli Anderson e lui lì trova la pace che non esiste a casa sua. Dopo un po' è naturale che il ragazzo si trasferisca a vivere definitivamente dall'amico. Insieme suonano in un gruppo chiamato Grand Central, che poi prende il nome di Champagne. Prince, che nella vita è un ragazzo timido e silenzioso, sul palcoscenico si trasforma a tacchi, trucco, pantaloni a zampa d'elefante e soprattutto un'assoluta capacità di tenere in pugno il pubblico, e la cosa non passa inosservata. Tutto è iniziato con le mie prime apparizioni nei locali di Minneapolis. La voce ha poi iniziato a diffondersi e il mio primo manager, di cui non ricordo il nome, mi portò a Los Angeles, e così altre persone iniziarono ad accorgersi di quello che potevo fare. Il manager si chiama Hasney e grazie a lui che Prince firma il suo primo contratto per registrare con la Warner Bros. È il primo colpo d'ala che dà inizio alla carriera di Prince. O meglio, un colpetto d'ala c'era già stato grazie all'incontro con Chris Moon, che era un eccentrico inglese proprietario di uno studio di registrazione a Minneapolis, che aiutava il giovane Nelson a mettere giù, insomma, a sistemare qualche demo da portare a New York. E quando nella grande mela non ottengono i risultati, a Moon viene in mente Hasney e prende i contatti che porteranno Prince a firmare il suo primo contratto. Insomma, il risultato è un album d'esordio che si chiama For You, che vede la luce nell'aprile del 78. Prince non ha ancora 20 anni. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1978, il ventenne Prince è uscito col suo primo album intitolato For You e nel 79 con una nuova band pubblica un altro album che chiama Prince. Contiene due brani che si piazzano bene nella classifica, soprattutto I Wanna Be Your Lover. E siamo al 1980, sta iniziando un nuovo decennio, è il decennio in cui la pop music si rinnova in maniera grandiosa grazie a tre star assolute, Michael Jackson, Madonna e Prince, tre artisti enormi, e forse Prince dei tre è quantomeno il più sperimentatore, il più particolare, diverso da tutti, è un artista tutto tondo. A partire dal suo primo album lui scrive canzoni, suona gli strumenti, arrangia, produce, canta, è un servizio completo. In lui c'è una passione per la musica che sfiora l'ossessione, è maniacale, è perfezionista, riarrangia i suoi brani fino a quando non li considera perfetti, non ha paura di cambiare tutto e ricominciare da capo. Questo è ciò che lo rende libero, e lo dice anche Stevie Wonder. Era davvero libero per fare quello che faceva senza paura, ed era una cosa bellissima, perché è meraviglioso, meraviglioso quando non permettiamo alla paura di spegnere i nostri sogni, e lui non lo permetteva. Vent'anni e i sogni già abbastanza chiari. Lui vuole fare grande musica, la vuol fare a modo suo, soprattutto dal vivo. Nel 79 iniziano i primi concerti, già alla seconda esibizione si impone presentandosi con delle auto reggenti nere e uno slip zebrato, perché quando si parla di Prince non si può dimenticare il suo senso estetico. Ogni nuovo album corrisponde a un nuovo stile, New Romantic per Purple Rain, un po' da teppista per Kiss, dove indossa la maglietta nera tagliata corta, poi col trench per Sign of the Times, e poi gli immancabili tacchi, anche perché non è altissimo, i capelli afro poi tagliati corti, il trucco, tutto è studiato fin nei minimi dettagli, perché tutto ha un significato che va ben oltre la moda. Hai il pubblico che ti meriti, per questo rischiavamo di più indossando abiti di scena particolari. Quando hai 21 anni, sai com'è, provi a fare tante cose. E nell'80 esce Dirty Mind, un album accolto molto bene dalla critica, un mix innovativo di funk, rhythm and blues, new wave, pop, con canzoni che contengono riferimenti sessuali molto precisi. Insomma, il sesso rimarrà sempre una costante nei suoi testi. Il sesso è raccontato anche in varie sfaccettature, soprattutto descrivendo l'ambiguità, la fluidità delle relazioni, fino ad arrivare anche a scrivere versi scioccanti come per il brano Sister, dove lascia intravedere presunti giochi incestuosi. Nell'81 esce Controversy e Prince inizia a girare in tour, accetta di suonare come band di apertura per i Rolling Stones, però un'unione che non funziona perché lui viene fischiato da un pubblico di rocker che non può capirlo, che egli tira bottiglie di birra, quando è costretto a lasciare il palco, giura a se stesso che non suonerà più per la band inglese. E nell'82 esce 1999, che apre la strada all'imminente rivoluzione musicale di Prince, dichiarata già dal gruppo che l'accompagna, che chiama The Revolution. Alle tastiere arriva Lisa Coleman e dopo un po' un'altra donna, Wendy Melvoin, alla chitarra. Peraltro le due ragazze avranno anche una loro carriera con il duo Wendy e Lisa, arriveranno anche in Italia, me le ricordo, al Festival Bar. Fra le voci di supporto c'è anche Jill Jones, che grazie a un brano meraviglioso scritto da Prince, Mia Bocca, conosce un altro momento di fama. E del resto, secondo Paul Gambaccini, suo amico e volto noto della TV inglese, con le donne Prince sapeva lavorare bene. Pensate al successo di Nothing Compares to You, persino D'O'Connor ne abbiamo parlato, I Feel For You per Chaka Khan, di Manic Monday scritto per le Bengals. C'è una cosa molto interessante. Prince scriveva cose molto belle per le donne. Le sue migliori canzoni per altri sono per le donne. Le sue caratteristiche musicali e la sua vocalità funzionavano molto bene con la vocalità femminile. Tutte canzoni particolari, come per esempio Mia Bocca, che non si ascolta tanto spesso, però ha un video girato da un regista pubblicitario tutto virato seppia. È un video molto interessante, andate a rivedervelo se vi capita. E finalmente arriva il 1984, l'anno in cui George Orwell aveva ipotizzato un mondo governato dal Grande Fratello. E invece è l'anno in cui Prince domina la classifica con un disco incredibile, preceduto da un progetto cinematografico ancora più inaspettato. Stiamo per parlare della pioggia viola, Purple Rain. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una storia musicale che avrebbe potuto essere più lunga se non si fosse interrotta bruscamente con la morte del nostro protagonista Prince. Si dice per overdose di oppiacei, forse la verità non la sapremo mai. Va detto che Prince era vegano, beveva raramente, si arrabbiava se i suoi collaboratori facevano uso di droga, era diventato testimone di Geova e aveva avuto una vita contraddistinta dalla fede, come dimostra in un'intervista dell'85. I believe in God. Credo in Dio, che c'è un solo Dio. Credo nell'aldilà e ho fiducia che potremo entrarci. Sono stato accusato di tante cose che contraddicono tutto ciò, ma voglio che la gente sappia che sono molto sincero riguardo alla mia fede. Prego ogni sera e non chiedo niente. Dico soltanto grazie. E Dio deve averlo ringraziato per il successo incredibile che gli arriva improvvisamente nell'84. E poi c'è il tour per l'uscita dell'album 1999. A Prince viene in mente un soggetto cinematografico vagamente basato sulla sua vita, la storia di un ragazzo con una famiglia difficile che vuole diventare un artista. In mezzo c'è una storia d'amore con la splendida Apollonia Cotero. Al suo rientro a Minneapolis iniziano le riprese con un piccolo budget. Bene, il titolo del film è Purple Rain. È inutile dire che della colonna sonora se ne occupa lui e produce il disco omonimo. Non si limita al solito tour de force strumentale, in questo caso recita anche nel ruolo principale, quello di Kid, il suo alter ego. Ed è un successo totale, l'album rimane in classifica 21 settimane consecutive, il film incassa più di 100 milioni di dollari, la colonna sonora vince l'Oscar, il brano Purple Rain diventa un classico. Sentiamo a questo proposito Death Dickerson, il primo chitarrista di Prince. La canzone Purple Rain è, secondo me, un capolavoro nel riuscire a coniugare il suo essere un brano commerciale con l'essere anche molto emotivo. È una di quelle canzoni che quando la senti ti torna in mente dove eri la prima volta che l'hai sentita, perché ti provoca un immediato rilascio di serotonina ed endorfina nel cervello. È stato un vero passo avanti per lui per quel che riguarda la sua evoluzione in un artista di successo commerciale, ma al tempo stesso è riuscito a mantenere un carattere distintivo. Tu sai che è Prince, ma al tempo stesso è una canzone classica, di quelle che, anche se la si sente dopo 20 anni, rimane un classico. E da Purple Rain, peraltro, vengono estratti altri brani fantastici come Let's Go Crazy e come When Doves Cry, che da solo vende più di 2 milioni di copie. Non succedeva spesso che i testi di una canzone numero uno dicessero cose come: forse sono come mio padre, troppo orgoglioso, forse sei come mia madre, non è mai soddisfatta. Quest'idea di qualcuno che parla di simili drammi nelle loro vite, c'è qualcosa dentro. E lo stesso vale anche per i suoi testi erotici. Voglio dire, è roba forte. Quello che avete appena sentito è il commento di When Doves Cry di Anthony DeCurtis, un critico musicale della rivista Rolling Stone. L'analisi è molto corretta, però insomma bisogna dire che gli americani, noti per produrre testi abbastanza scadenti, appena sentono che l'asticella si alza, gridano subito al miracolo. Comunque va anche ricordato che da un suo brano, Darling Nikki, nasce l'idea, peraltro della moglie di Al Gore, di scrivere, qualora il testo fosse ritenuto offensivo o comunque troppo ardito, la scritta Parental Advisory, cioè contiene testi espliciti. A Purple Rain seguono altri grandi album, nell'85 Around the World in a Day con il singolo Raspberry Beret, e poi arriva Parade con un brano che si chiama Kiss. In Italia, quando il video viene presentato durante la trasmissione Italia Sera, il conduttore Piero Badaloni lo definisce volgare, e invece Kiss diventa un classico intramontabile. Secondo il tecnico del suono David Rifkin, era una canzone nata per caso. La canzone Kiss è nata in maniera del tutto accidentale. Stavo lavorando con un gruppo chiamato Maserati in una sala e lui era in un'altra a lavorare ad una colonna sonora. Ci diede questa canzone chiamata Kiss con solo una chitarra acustica e noi cercammo di trasformarla in qualcosa. Trascorremmo la notte cercando di capire cosa farne e alla fine incidemmo la traccia. La mattina dopo, quando tornammo verso le 9:30, lui era già lì. Io gli chiesi: dov'è la mia registrazione? E lui disse: è troppo bella per voi, me la sono ripresa. E aveva già registrato sopra la sua voce e la chitarra e bam! Bam. Nell'87 è la volta dell'album Sign of the Times, progetto solitario senza i Revolution. Alcuni di voi ricorderanno il video molto originale utilizzato realizzando i testi in movimento, e non sono testi da poco: società, droga, delinquenza, insomma Prince non si tira indietro. Sign of the Times è la prova che lui conosce il mondo che lo circonda e che lo sa fotografare in maniera precisa. Sentiamo cosa dice Alan Leeds, il suo road manager per tanti anni. Pensava al concept dei nuovi album con la stessa rapidità con cui creava nuove canzoni, e documentavano a che punto fosse come compositore, come strumentista, come leader della band. Quasi ogni aspetto di Prince come musicista è ben rappresentato e racchiuso in Sign of the Times. E poi lo sbarco in Europa, anche in Italia, giugno 87, Milano, un concerto dove io c'ero. L'Italia lo scopre un po' tardivamente, dopo Michael Jackson. Se Jackson, come scriveva Repubblica, può essere considerato il più alto livello della black identity, capace però di piacere anche al pubblico bianco, Prince è qualcosa di completamente nuovo, è figlio di due culture, quella dei neri e il nuovo rock bianco, è il primo prototipo di una cultura nuova. Due cose che Prince rivendica da sempre. Sono cresciuto in un mondo bianco e nero. Sì, bianco e nero, come notte e giorno, ricco e povero. E bianco e nero. Quando ero giovane ho ascoltato ogni genere di musica. E quando ero più giovane mi sono detto che avrei suonato ogni genere di musica. E che non sarei stato giudicato per il colore della mia pelle, ma per la qualità del mio lavoro. E poi nell'87 viene annunciato un black album sulla scia del white album dei Beatles, viene ritirato dal mercato, poi esce Love Sexy, un album dove lui è ritratto nudo seduto sui petali di un fiore. E poi gli anni 90 che non iniziano benissimo. C'è un progetto cinematografico che si rivela disastroso, Graffiti Bridge, l'inizio delle tensioni con la sua casa discografica, la Warner. L'etichetta possiede non solo i master ma anche il nome Prince per un cavillo contrattuale. Di fatto, se volesse continuare a incidere dischi in proprio, dovrebbe perfino cambiare nome, visto che la battaglia con la Warner è causata dal desiderio di pubblicare album senza farsi dettare il calendario da loro. Prince sceglie proprio questo, cambia nome pur di mantenere la sua autonomia. Ho scavato profondamente nel mio cuore e nel mio spirito e ho deciso di andare verso un cambiamento nella mia vita, e uno dei modi con cui l'ho fatto è stato quello di cambiare il mio nome e separarmi dal mio passato e da tutto quello che significava. È stato riportato che abbia avuto un profondo contrasto con la mia casa discografica. Abbiamo avuto qualche problema riguardo la proprietà della musica, su quanto spesso avrei dovuto registrare dei dischi, e abbiamo trovato altri accordi. We got along otherwise. Quindi lui deve cambiare pelle, nasce l'artista precedentemente conosciuto come Prince, poi l'artista, poi si inventa un simbolo, una commistione tra il simbolo femminile e quello maschile, a sottolineare quanto sia difficile incasellarlo, e poi si sposa due volte, la prima con Mate Garcia, con una, peraltro una tragica perdita di un figlio a una settimana dalla nascita, e poi una seconda volta con una italo-canadese che si chiama Manuela Testolini, e poi gli anni 90 e i 2000 densi di progetti, Diamond and Pearls fino a Musicology, e poi i concerti, le collaborazioni, l'entrata nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2004. Insomma, lui non si ferma mai, anche con, come dire, alterni risultati, però la sua personalità continua comunque a attraversare la musica degli ultimi 35 anni. Mentre proseguo questo viaggio, non mi guardo mai indietro. Cerco di restare nel presente, di vivere nel presente. Credo che mantenga giovani. E per aiutarci a muoverci attraverso questo universo così complesso come quello di Prince, abbiamo chiamato un nostro amico, giornalista di chiara fama, uno di quelli a cui non piacciono tutti, anzi piacciono pochi, e quindi ci interessa il parere di Michele Monina. Buongiorno Michele. Buongiorno a tutti, bentrovati. Buongiorno, senti, recentemente chiacchierando del più e del meno, tu mi hai detto: oh, se fai una puntata su Prince voglio dire qualcosa io. E siccome tu, come dicevo prima, insomma, sei uno a cui piacciono veramente poche cose, anzi mi sa che più passano gli anni e meno cose ti piacciono, evidentemente siamo di fronte a qualcosa che per te rappresenta molto, e quindi la prima domanda è questa: cosa rappresenta Prince per te e per la musica mondiale? Guarda, per me personalmente Prince è stato un artista che è riuscito a farmi conoscere praticamente, non dico tutti i generi musicali, ma quasi, perché io sono incappato in lui negli anni 80, quando ero un ragazzino, il film e il disco Purple Rain, e già solo la canzone Purple Rain, ad esempio, era una canzone in cui cantava in un modo che aveva a che fare con il mondo del soul, suonava la chitarra facendo un omaggio a Jimi Hendrix. Nel resto dell'album e nella colonna sonora del film c'erano brani dance in cui però non c'era il basso, c'era molta elettronica, c'erano dei piccoli barlumi di quello che poi era il rap, che all'epoca era abbastanza sconosciuto per tutti. Sì. E quindi in un solo uomo, anche piccolino, diciamo, sì, di natura, c'era concentrato un po' di tutto. Beh certo, lui era totalmente trasversale. Ha avuto tante fasi. Diciamo, c'è stato un periodo subito dopo Graffiti Bridge, quindi nei primi anni 90, in cui si era un po' incartato, no? Questa lotta contro le major, questa cosa un po' l'ha distratto. Però sì, lo ha distratto, mi sembra il termine giusto. Senti, ma sì, tu non trovi che lui abbia peccato in certi momenti di sovrapproduzione, di bulimia? Sì, io credo che lui, cioè, sentivo che appunto una delle notizie che circolava riguardo a uno degli ipotetici motivi della sua morte fosse il fatto che avesse lavorato 156 ore di fila, sì, senza dormire. Più di me. Credo che fosse veramente talmente amante della musica, del suo mestiere, da stare sempre lì a incidere, a comporre, a fare pezzi. E questa cosa l'ha spesso portato a portare album che potevano essere come dire, un po' più diradati. Sì, magari di due album ne faceva uno, sì, bello. Oltretutto se li suonava anche quasi tutti da solo, no? Dall'elettronica, alla chitarra, basso, batteria, si faceva i cori. Sì, probabilmente non aveva filtri, avrebbe dovuto, di 40 album, mi sembra tanti siano quelli ufficiali, probabilmente se ne uscivano 20 erano... 20 capolavori, certo, certo. Senti, l'ultima domanda, Michele. Prince e il sesso, cioè lo ritieni parte integrante di quella rivoluzione sessuale che è partita dagli anni 60, da Jim Morrison, è arrivata fino a Madonna e fino ai giorni nostri? Sì, era famosissimo per tutte le relazioni che ha avuto con tutte le pop star che ha prodotto, no? Da Vanity, Apollonia, sì. Sheila Ivan, ce n'erano tantissime. Ma sarà vero? Non lo so, però su questo ha molto giocato. Ma al tempo stesso aveva un look assolutamente ambiguo, no? Cioè, quantomeno, certo. Leopardate. Sì, esatto. E questa, ma il fatto stesso che una delle sue canzoni più famose, che è Kiss, prendesse uno stereotipo del machismo, no? Del funky, quindi prendesse un genere che era proprio sessualizzato, ma in maniera molto maschia, sì, e la facesse tutta in falsetto, quindi assolutamente... Certo. Interpretando lui un po' la donna nel video e lasciando a Wendy, la sua chitarrista, il ruolo del duro, sì, certo. Era geniale perché metteva sul tavolo questa ambiguità lasciando tutti un po' spiazzati. Sì, certo. Sicuramente è servito molto a aprire un po' lo sguardo. Poi io credo che molto ci abbia giocato. Perfetto, Michele, sei stato utilissimo, non ne dubitavo, e un abbraccio da parte di tutti noi. Un abbraccio anche a voi. E il viaggio di Prince si conclude il 21 aprile del 2016 in un ascensore del suo complesso Paisley Park alle porte di Minneapolis. C'è chi parla di overdose, c'è chi ci dice, come ha detto Michele, che aveva lavorato per 6 giorni di fila senza mai smettere. Non c'è, forse non ci sarà mai una versione definitiva e forse non la vogliamo neanche sapere bene. Noi vogliamo solo ringraziare Prince per averci dato canzoni, lavoro, artisticità e soprattutto un nuovo colore, in questo caso il viola, il purple, ma è comunque un nuovo colore a tutta la musica funky e rock, e quindi non si può non pensare a Prince nell'evoluzione di un certo tipo di musica, diciamo di intrattenimento ballato intelligente. Persone che nella loro vita hanno saputo dare 100 colpi d'ala, hanno volato in alto, magari hanno avuto cadute, risalite, ma in qualsiasi modo hanno lasciato un segno nella loro vita. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it o visitate le nostre pagine su Radio 24, Facebook, Twitter del Falco il Gabbiano, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. Tracy died soon after a long fought civil war.